pezzo di bello piange con te, mi chiedo perché. Adesso provo a ripetere quello che fai, yeah. E sono certo il successo mi arriverà. Giocare con me, ma un giorno disse: io vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Ma non c'è niente da fare, questo ragazzo della via blu no, non si può imitare, non puoi toccare, ti sta più su. Sonia